24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Roberta Pellegatta e bentrovati in compagnia di 24 ore in Europa. Oggi in primo piano di nuovo la Libia con l'emergenza e migrazione in Italia e la decisione dei ministri degli esteri NATO riuniti a Berlino di estendere le operazioni nel paese africano fino a quando sarà necessario. Ma parleremo anche della crisi in Costa d'Avorio e delle possibili conseguenze sui paesi dell'Unione Europea. Per lo sport in primo piano il tennis e la Formula 1, ma parleremo anche del design europeo presente al Salone del Mobile di Milano. Ma apriamo l'edizione di oggi con l'uccisione a Gaza del cooperante italiano Vittorio Arrigoni. Una tenda per accogliere quanti desiderano esprimere condoglianze per la morte dell'attivista 36enne è stata allestita nel porto di Gaza, dove Vittorio Arrigoni è stato ucciso a poche ore dal rapimento da parte di un commando di estremisti salafiti. Quando lo hanno trovato era già morto, ucciso ore prima del blitz che i miliziani di Hamas hanno compiuto nella notte nell'appartamento alla periferia di Gaza City. Aveva sangue dietro la nuca, probabilmente per i colpi subiti, e ai polsi per le catene o i lacci che lo tenevano legato. Aveva ancora la benda sugli occhi. La responsabilità, da subito, attribuita a un gruppo salafita ultraestremista. I sequestratori avevano diramato un video del volontario italiano in cui minacciavano di ucciderlo se non fossero stati rilasciati detenuti integralisti e il capo del gruppo arrestato il mese scorso da Hamas. Ma sulla veridicità del messaggio in molti hanno sollevato dubbi. Vittorio Arrigoni era un cooperante scomodo, abituato a dire chiaro quello che pensava. Se sei arabo a Tel Aviv non sono luci e non c'è assolutamente nessuna accoglienza, così come in tutto Israele, che è uno stato di apartheid. A Gaza, dove ormai viveva in pianta stabile, Vittorio lo conoscevano in molti perché si spendeva ogni giorno per aiutare, ora i pescatori, ora i contadini, ora i bambini, e in tanti si sono ritrovati davanti all'ospedale, dove almeno fino a domenica resterà il suo corpo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma chi sono questi estremisti salafiti? Da chi è costituito il gruppo che ha ucciso Vittorio Arrigoni? L'obiettivo è tanto ambizioso quanto realistico: instaurare un califfato islamico prima a Gaza, poi a tutti i paesi musulmani e infine al mondo intero. La loro guerra santa è rivolta non solo contro Israele, ma anche contro la stessa Hamas, rea ai loro occhi di aver tradito il vero Islam. La costellazione dei gruppi salafiti nella striscia di Gaza è un fenomeno che sta crescendo pericolosamente. Il gruppo che ha ucciso l'attivista italiano Vittorio Arrigoni, autoproclamatesi brigata dei valorosi compagni del profeta Muhammad bin Muslima, era una sigla finora sconosciuta. Molti di loro sostengono di condividere l'ideologia di Al-Qaeda. Quanti sono? La cifra più credibile è di alcune centinaia. Diverse decine sono però miliziani esperti che hanno abbandonato le milizie di Hamas e Zedim al-Qassam. Hamas ha sempre minimizzato la loro importanza. Ragazzini che vanno reeducati, ci spiegavano gli ufficiali, ma più pericolosi di quanto si voglia far credere. Roberto Bongiorni, GR24, Sole 24. Voltiamo pagina e parliamo della crisi libica. I ministri degli esteri NATO, riuniti ieri a Berlino, hanno concordato di estendere le operazioni in Libia fino a quando sarà necessario. L'Italia dice no a un impegno nei raid aerei. Sentiamo. Guerra mediatica tra Libia e NATO nel giorno del vertice dei ministri degli esteri dell'Alleanza Atlantica in Germania, mentre la TV libica mostrava le immagini di un Muammar Gheddafi impegnato a scorazzare in auto per le strade di Tripoli, acclamato da un manipolo di manifestanti, la NATO trovava l'accordo su un minimo comune denominatore. The situation in Libya. Come annunciato dal segretario generale Anders Fogh Rasmussen, l'Alleanza Atlantica proseguirà con le operazioni in Libia finché sarà necessario. I 28 paesi NATO hanno concordato di andare avanti finché non si arriverà alla cessazione totale delle violenze contro i civili, al ritiro delle forze militari e paramilitari del regime e a un accesso pieno e libero degli aiuti umanitari. Fumata nera invece per la richiesta di più aerei per rafforzare la missione, qui gli alleati non hanno preso impegni concreti, lasciando Rasmussen a bocca asciutta. Sul fronte libico invece pesanti bombardamenti ieri a Tripoli, mentre proseguono i combattimenti a Misurata con vittime civili. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'Italia, oltre a rimanere riluttante all'idea di partecipare ai raid aerei, dice no all'ipotesi di armare i ribelli. Il ministro degli esteri Franco Frattini. Vi sono paesi che hanno deciso un sostegno anche pratico in termini di fornitura di armi, l'Italia non lo ha fatto, altri paesi non lo hanno fatto, ma vi è una riflessione politica in corso anzitutto sulla utilità e sulla praticabilità e poi sul tipo di equipaggiamenti. Io ritengo che sostegni di tipo militare non letale, che possano essere ad esempio apparati di radiocomunicazione, veicoli, strumenti per la visione notturna per individuare le azioni o le attrezzature militari del regime, siano da considerare. certamente da escludere armamento pesante, cosiddetto armamento letale o da offesa. La Russia ritiene che in molte occasioni le operazioni militari della NATO in Libia siano andate oltre il mandato della risoluzione ONU. Secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, che ieri era al Consiglio NATO-Russia, è necessario arrivare al cessate il fuoco in Libia e avviare negoziati tra le due parti in causa. E prosegue in Italia l'emergenza immigrazione. Sono 30 i milioni di euro messi a disposizione per fronteggiare l'emergenza. Prosegue la consegna di permessi agli immigrati sparsi nei centri di accoglienza in tutta Italia, documento che però non sarà sufficiente per poter raggiungere la Francia. Per la polizia d'Oltralpe, infatti, i permessi saranno validi solo se accompagnati al passaporto. Ma intanto a Ventimiglia cresce la preoccupazione per l'ammassarsi ininterrotto di stranieri desiderosi di entrare in territorio francese. La legge e la normalità devono essere ripristinati al più presto, ammonisce il sindaco della cittadina di confine, Gaetano Scullino, che chiede al governo la chiusura del centro di assistenza per gli immigrati. Tutto questo mentre continuano gli sbarchi a Lampedusa. Sono 221 gli immigrati salvati stamattina al largo dell'isola, mentre la polizia di Campobasso ha arrestato due tunisini ospitati presso il centro di accoglienza di Campo Chiaro, accusati di sfruttamento dell'immigrazione clandestina. E intanto sul fronte europeo, il ministro dell'interno Maroni, con una lettera al commissario europeo per gli affari interni Malmström, sollecita una immediata intesa per i pattugliamenti congiunti al largo della Tunisia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dalla crisi in Nord Africa scendiamo a sud del Sahara, in Costa d'Avorio. Secondo l'ONU sono oltre 1 milione gli sfollati che si ritrovano senza casa, senza cibo e in condizioni igieniche disastrose. Ora che il presidente eletto ha assunto il potere grazie all'intervento francese, inizia il lungo lavoro di ricostruzione. Intanto sono stati rimpatriati dal paese africano diversi nostri connazionali. L'ambasciatore italiano da Abidjan, Giancarlo Izzo, al microfono di Gigi Donelli. In Costa d'Avorio ci sono più di 5-6 milioni di stranieri che erano venuti qui a lavorare. Quindi il problema non è soltanto un problema della Costa d'Avorio, è un problema di tutta la regione. Io le ricordo che la maggior parte delle importazioni e delle esportazioni, per esempio del Mali, del Burkina Faso in particolare, del Niger, passa attraverso il porto di Abidjan. Quando noi come Unione Europea abbiamo messo delle sanzioni ai porti per evitare che il regime Gbagbo si avvantaggiasse delle esportazioni del cacao e del caffè, questo ha colpito non soltanto la Costa d'Avorio, ma l'intera regione. La comunità italiana in Costa d'Avorio? Erano 600 persone, ad Abidjan sono rimaste all'incirca 280 persone, di cui una sessantina dovrebbero partire. Ora, buona parte delle persone che sono rimaste qui sono quelle che avevano avviato una piccola attività, vuoi commerciale, vuoi industriale. Questi sono anche i giorni in cui la Francia mostra i muscoli. Ma io quello che vorrei semplicemente dire qui, arrivati a questo punto, io credo che l'azione militare era quasi diventata necessaria. La città di Abidjan in particolare e la Costa d'Avorio in generale non poteva più andare avanti. Voltiamo pagina e torniamo in Europa. È stata del 2,7% l'inflazione su base annuale nell'area euro e del 3,1% nei 27 paesi dell'intera Unione, misurata nel mese di marzo da Eurostat. L'Istituto Europeo di Statistica ha corretto in rialzo la stima flash pubblicata il 31 marzo scorso, quando aveva indicato un valore del 2,6%. A febbraio l'inflazione era stata valutata al 2,4%. E le borse europee hanno chiuso contrastate. Se Parigi, Francoforte e Londra hanno terminato la seduta in positivo, Piazza Affari ha chiuso piatta. Francoforte ha guadagnato lo 0,44%, Parigi lo 0,10% e Londra lo 0,45%. Chiusura invece leggermente negativa a Piazza Affari. Seduta poco mossa per Piazza Affari, dove i listini hanno terminato la giornata attorno alla parità. Il FTSE All Share ha fatto segnare meno 0,05% e il FTSE MIB meno 0,06%. Gli investitori hanno esitato a prendere posizione, combattuti tra i dati macroeconomici statunitensi positivi e i timori legati all'accelerazione dell'inflazione e alla situazione del debito pubblico europeo. Tra i titoli, Prismian è salita del 2,8% grazie alle prospettive incoraggianti sul 2011 annunciate dall'amministratore delegato Valerio Battista. Bene anche Fiat Industrial, più 3,19%, che la prossima settimana annuncerà i conti del primo trimestre, mentre ha chiuso in rosso il settore bancario, zavorrato dai risultati deludenti di Bank of America. Male in particolare BPM, meno 2,36%, che continua a risentire della prospettiva di un imminente aumento di capitale, caldeggiato anche dalla Banca d'Italia. Paolo Pavonetto da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. La russa Vimpelcom e l'egiziana Wind, che opera anche in Italia, hanno completato la fusione dando vita al sesto operatore mondiale di telecomunicazioni mobili. Il gruppo è presente in 20 paesi e ha 181 milioni di clienti. E adesso lo sport. Il Masters di Monte Carlo perde nei quarti di finale uno dei protagonisti più attesi. Roger Federer, che aveva vinto i tre precedenti contro Meltzer, stavolta si arrende al gioco brillante dell'austriaco e al vento fastidioso che a metà del primo set ha cominciato a sferzare il centrale. Finisce con un sorprendente 6-4-6-4. Avanza, secondo pronostico invece, Rafa Nadal, che batte 6-1-6-3 il croato Ljubicic. Per la Formula 1 un'altra giornata nel segno di Sebastian Vettel. Sul circuito cinese di Shanghai, il tedesco, leader del campionato dopo aver centrato altrettante vittorie nelle prime due corse, è stato il più rapido sia nella prima sessione di prove libere sia nel pomeriggio, quando si è cercato il limite con le gomme di mescola più morbida necessarie nella battaglia per la pole position. Dietro Vettel il due McLaren di Hamilton e Button, quindi le Mercedes di Rosberg e Schumacher in ripresa dopo le mediocri prestazioni di Sepang. Le Ferrari, sesto Massa che guidava una 150 prima versione, mentre Alonso, a lungo bloccato al box da un guasto idraulico, ha chiuso la giornata solo 14esimo. E in chiusura andiamo a Milano per la 50esima edizione del Salone del Mobile e alla settimana del design Meneghina c'è tanta Europa. Il mondo dell'arredo è tutto concentrato a Milano, non solo gli espositori e i progettisti, ma anche i visitatori. La settimana del design è un'esplosione di multiculturalità e lo spirito italiano che detta gli stimoli e anticipa le tendenze dei prossimi 12 mesi, ma che soprattutto tiene le fila di una fiera giunta al 50esimo anno di età e che più che mai è ricca di contributi da ogni parte del mondo. C'è tanta Europa al Salone del Mobile. Ci sono i laboratori di idee come l'Ago Studio, in cui nel quartiere di Brera, nel cuore di Milano, designer di tutta Europa progettano funzionali complementi d'arredo all'insegna della creatività. I coloratissimi mobili di Magis, accessibili a quasi tutte le tasche, non sono pensati da designer italiani, dice il direttore marketing Barbara Minetto. Un po' per scelta, un po' per caso, sono praticamente tutti stranieri. E così anche Cartel, altro marchio che produce mobili e oggetti in plastica e si rivolge a un pubblico vastissimo, conta sull'apporto di designer di diversi paesi europei e non. Responsabile del marketing è Lorenza Luti. Il prodotto viene fatto dal nostro know-how, dalle nostre tecnologie prettamente italiane, ma con l'influsso culturale di tutti i nostri designer che vengono da tutto il mondo. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Roberta Pellegatta. Grazie per l'ascolto. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.